Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questa giornata di giovedì 20 febbraio con Matteo Renzi che naturalmente è sempre più uno show continuato, ieri sera porta a porta per la Repubblica Presidenziale ricongiungendosi con la signora Meloni di Fratelli d'Italia, ma noi prima di leggere i giornali subito Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Due donne e attiviste vincono i premi più prestigiosi per i diritti umani. Un'attivista iraniana contro il velo obbligatorio e un'avvocatessa yemenita che ha rivelato prigioni segreti. Iraq pronto, il nuovo governo piacerà ai manifestanti. Venezuela, nuove sanzioni americane. E ancora Ucraina, l'agenzia cinematografica vieta il film del 2012 dell'ex attore comico e attuale presidente Vladimir Zelensky. Germania, strage ad Hanau, uomini armati sparano contro due locali dove si fuma l'arghilè. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo con lo Yemen. L'attivista yemenita Huda al-Sarari, che ha contribuito a esporre una rete di prigioni segrete gestite dagli Emirati Arabi Uniti nel sud dello Yemen, ha vinto il prestigioso Martin Ennals Award per i diritti umani. Sarari, un'avvocatessa di 42 anni, ha lavorato con i gruppi di diritti umani e la stampa internazionale dal 2015 per denunciare gli Emirati Arabi Uniti e le milizie che appoggiano e che avevano istituito una rete di centri di detenzione segrete nelle aree che controllano nello Yemen, catturando persone ritenute sospette e torturando senza un giusto processo. Dopo aver ricevuto il premio a Ginevra, ieri Sarari ha criticato le parti in guerra in Yemen chiedendo che si paghino le violazioni dei diritti umani nel paese devastato dalla guerra, comprese le sparizioni forzate. Sarari, il cui figlio è stato ucciso l'anno scorso da uomini armati durante una protesta per i diritti umani ad Aden, ha affermato che Abu Dhabi sta cercando di usare le sue relazioni internazionali e gli stretti legami con il presidente degli Stati Uniti Trump per nascondere i suoi abusi. Si vende come un alleato antiterrorismo, ha detto ieri durante la cerimonia. Ma credetemi, sono una madre che ha perso un figlio, ha visto gli Emirati in azione. Questo non è un paese con il quale vuoi macchiare il tuo nome. Anche criticato i ribelli Houthi, accusandoli di impegnarsi in uno sforzo organizzato per distruggere le istituzioni dello Stato, intimidire i difensori dei diritti umani, giornalisti e operatori umanitari. Sogno un paese in cui prevalgono i diritti del popolo yemenita, ha detto Sarari. L'avvocatessa per i diritti umani ha affrontato minacce di morte per aver difeso i detenuti scomparsi, ma non si è fermata, ha raccolto prove per oltre 250 casi di abusi che si sono verificati in questi centri di detenzione. Avevo paura di uscire di casa o parlare con i giornali, ha detto Sarari a Middle East Eye nel 2017, ma ora voglio che tutto questo si sappia. E spostiamoci in Iran, dove un'altra attivista iraniana per i diritti delle donne, attivista anti-hijab obbligatorio, ha vinto un prestigioso premio internazionale dedicato alle donne a Ginevra. Shaparak Sharizadeh, 44 anni, era una delle Girl of Revolution Street, ovvero una delle ragazze iraniane che hanno osato togliersi i veli in luoghi pubblici affollati per protestare contro l'hijab obbligatorio e il codice di abbigliamento della Repubblica Iraniana. Il 27 dicembre 2017, il giorno prima lo scoppio delle proteste diffuse contro la povertà, la disoccupazione e la dittatura in tutto l'Iran, una donna non identificata è salita su una cassa in una delle strade più trafficate di Teheran, Enghelab Avenue, via Rivoluzione. Si è tolta il velo, lo ha messo su un bastone e ha cominciato a sventolarlo in aria. Il video è diventato subito virale, simbolo della resistenza delle donne iraniane all'hijab obbligatorio. Così centinaia di donne in tutto il paese, dominato dominato dai conservatori religiosi, hanno seguito l'esempio e hanno rimosso i loro foulard in luoghi pubblici. Shahrizadeh venne condannata a 2 anni di prigione, oltre a una pena detentiva sospesa di 18 anni nel 2018. Immediatamente dopo la sua liberazione su cauzione, Shahrizadeh è fuggita dall'Iran per continuare la sua campagna per i diritti delle donne. Nel 2018 le autorità iraniane hanno annunciato di aver arrestato 29 donne che hanno rimosso il velo durante una campagna contro il codice di abbigliamento islamico, che è obbligatorio nel paese. Restiamo in Iran perché le autorità iraniane hanno deciso di non consegnare le scatole nere danneggiate del volo ucraino abbattuto al decollo dall'aeroporto della capitale poche ore dopo che le guardie rivoluzionarie, la più potente forza militare iraniana, aveva lanciato missili contro 2 basi irachene che ospitavano militari americani all'inizio di gennaio, in ritorsione all'omicidio mirato degli americani contro il generale Soleimani, ucciso da un drone all'aeroporto di Baghdad. Nonostante le pressioni internazionali per un'indagine indipendente, l'Iran non consegnerà le scatole nere. Su quel volo sono morte 176 persone, tra cui 57 cittadini iraniani con la doppia nazionalità canadese, motivo per il quale il Canada è intervenuto chiedendo di avere le scatole nere, ma il ministro della difesa iraniano Amir Hatami ha risposto che la scatola di registrazione dei dati di volo ha subito danni evidenti e l'industria della difesa è stata invitata a contribuire alla sua ricostruzione. Iraq, il neo premier Muhammad Alawi ha detto ieri di aver messo insieme un governo di politici indipendenti e ha invitato il Parlamento a tenere una sessione straordinaria la prossima settimana per garantire il voto di fiducia. L'Iraq sta affrontando una crisi interna straordinaria. Dall'inizio delle proteste, il 1 ottobre, più di 600 manifestanti e attivisti sono stati uccisi, 20.000 i feriti, persone che chiedono la rimozione dell'elite politica corrotta, la fine dell'interferenza straniera da parte sia dell'Iran che degli Stati Uniti. Alawi ha dichiarato durante un discorso televisivo che se dovesse ottenere il voto di fiducia il suo primo atto sarebbe quello di indagare sulle uccisioni dei manifestanti e consegnare gli autori alla giustizia. Ha anche promesso elezioni anticipate e ha chiesto ai ragazzi di Piazza Tahrir di dare una possibilità al suo governo nonostante la crisi di fiducia di tutto ciò che riguarda la politica di cui è incolpato i suoi predecessori. Ex ministro delle comunicazioni, Alawi è stato designato dal presidente Salih il 1 febbraio scorso, dopo mesi di liti tra partiti rivali, immediatamente respinto dai manifestanti che a novembre avevano costretto il precedente primo ministro Abdel Mahdi a dimettersi rimanendo in carica. Ora l'ex premier ha promesso di lasciare se Alawi non ottenesse la fiducia entro il 2 marzo, potenzialmente si creerebbe un vuoto di potere senza precedenti. E sempre in Iraq, a Tal Afar, quindi vicino al confine siriano, è stata rinvenuta una fossa comune con oltre 1.000 vittime dell'ISIS. Siria, se gli altri paesi non riescono a darci garanzie, dovremo farci carico da soli delle nostre preoccupazioni di sicurezza. È solo una questione di tempo prima che iniziamo un'altra operazione nel nord-ovest della Siria, a Idlib, ha detto il presidente turco Erdogan parlando al gruppo parlamentare del suo HKP ad Ankara, confermando di essere pronto ad azioni militari nella provincia siriana. I russi mettono in guardia la Turchia contro un eventuale attacco, intanto centinaia di migliaia di persone stanno fuggendo dalla zona e non c'è un posto dove andare, le strade sono intasate di persone e macchine. Libano, il terzo paese più indebitato al mondo, la mancanza di lavoro ha costretto migliaia di rifugiati siriani a tornare nella propria patria devastata dalla guerra. In 5 mesi sono stati persi 25.000 posti di lavoro. Israele, il processo per corruzione del premier Netanyahu inizierà il 17 marzo, 2 settimane dopo le elezioni. Il Tribunale Distrettuale di Gerusalemme ha annunciato la data della prima udienza per il premier, che arriverà mentre i partiti si staranno affrettando a formare la coalizione. Libia, il governo Sarraj, quello riconosciuto internazionalmente di base a Tripoli, si è ritirato dai colloqui di pace di Ginevra in protesta alle continue violazioni della tregua da parte del rivale Haftar, comandante dissidente dell'Est che da mesi assedia il sud di Tripoli. Tunisia, il primo ministro Fakhfakh ha nominato ieri un nuovo governo di coalizione dopo aver raggiunto un accordo con il partito islamista moderato di Ennahda, il più grande al potere in Parlamento, ponendo fine così a una crisi politica in corso da ben 4 mesi. Dopo Uganda, Kenya, le locuste del deserto hanno invaso il Sudan del Sud. Il governo ha detto che sta cercando di raccogliere più di 19 milioni di dollari per combattere l'infestazione. Il ministro Ognoti Adigoper per l'alimentazione e l'agricoltura ha dichiarato che uno sciame di locuste è entrato lunedì nel paese. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. Germania. Two shootings in Germany. Di almeno 9 persone uccise il bilancio provvisorio e altre ferite gravemente dopo 2 sparatorie in un bar Shisha o Arghilè nella città tedesca di Hanau, ha riferito la polizia locale. Coinvolti nella caccia agli autori, decine di poliziotti. La polizia poi ha twittato verso le 5 che le forze speciali della polizia avevano fatto irruzione nella casa del presunto sospetto e l'avevano trovato morto insieme a un altro corpo. Uno dei morti è probabilmente il colpevole, ha detto la polizia in una nota. Al momento non ci sono indicazioni di altri autori, sono in corso indagini sull'identità delle vittime e sul sospetto colpevole. Hanau si trova nella Germania sud-occidentale, a circa 20 km est di Francoforte, una popolazione di circa 100.000 abitanti. Le notizie sulla sparatoria arrivano pochi giorni dopo che una persona è stata uccisa e altre 4 ferite fuori da un locale di musica di Berlino venerdì scorso, che ospitava uno spettacolo di cabaret turco. I motivi dietro all'attacco di Berlino sono rimasti poco chiari. Regno Unito, ingressi chiusi dal 2021 e nuovi immigrati a bassa qualificazione che non parlano la lingua inglese, inclusi quelli che dall'anno prossimo busseranno alle porte dell'isola dai paesi dell'Unione Europea. L'obiettivo del modello appunti è simile al sistema australiano. Ucraina, l'agenzia cinematografica ha vietato un film del 2012 dell'ex attore comico attuale presidente ucraino Zelensky, perché vi recita l'attrice russa Yekaterina Varnava, finita nella lista nera di Kiev per aver visitato la Crimea senza l'autorizzazione del governo ucraino per uno show nel 2016. La Russia si annessa alla Crimea nel 2014 con un'invasione militare e un referendum controverso. L'agenzia cinematografica ha vietato di proiettare in pubblico il film 8 nuovi appuntamenti per questioni di sicurezza nazionale. Tra quelli proibiti da Kiev anche il film d'azione americano Machete con Steven Seagal e il film francese L'Enfant de Timpelbach con Gérard Depardieu. Entrambi gli attori sono cittadini russi. Afghanistan. Dopo 5 mesi dalle elezioni presidenziali, la commissione elettorale conferma la vittoria dell'attuale presidente Ashraf Ghani con un margine sottilissimo di 50,64% dei voti contro il rivale di sempre Abdullah Abdullah, che parla invece di colpo di Stato. Corea del Sud, l'alta corte di Seul ha condannato di nuovo l'ex presidente sudcoreano Lee Myung-bak, già condannato ottobre 2018 per corruzione e appropriazione indebita, portando così la pena detentiva a 17 anni dai 15 di primo grado, ordinando la revoca della libertà su cauzione a marzo del 2019. Lee, 78 anni e presidente dal 2008 al 2013, era stata concessa la libertà su cauzione per problemi di salute. La corte lo ha anche condannato al pagamento di una multa di 13 miliardi di won, 10,9 miliardi di dollari, e di un ulteriore forfè di 5,78 miliardi. Lee è il quarto ex presidente sudcoreano a essere condannato per motivi penali. Cina, cala il numero dei nuovi casi. Secondo uno studio, la situazione di paralisi in Cina a causa della malattia ha ridotto l'inquinamento del 25%. E sulla nave in quarantena al largo del Giappone, la Diamond Princess, muoiono 2 passeggeri, una coppia di 80 anni. Salgono a 82 i casi in Corea del Sud, 2 in Iran, migliore in Egitto, un cinese invece contagiato. The Wall Street Journal has come under fire from Beijing. Dopo un titolo ritenuto razzista e diffamatorio sugli sforzi contro l'epidemia, la Cina revoca l'accredito a 3 giornalisti del Wall Street Journal e li ha espulsi. Il giornale si è rifiutato di chiedere scusa per un articolo che definiva la Cina il vero malato dell'Asia. Stati Uniti, Trump nomina l'ambasciatore americano in Germania, Richard Grenell, direttore ad interim della National Intelligence, che coordina 17 agenzie di intelligence americane. Grenell è il primo omosessuale dichiarato del governo. Il presidente fa fuori invece il sottosegretario alla difesa John Rood, al quale è stato chiesto di dimettersi. In carica dal 2018, consigliere di Mark Esper, segretario della difesa, scrisse al congresso una lettera che smentiva la versione alimentata dal presidente, che certificava gli sforzi fatti dall'Ucraina alla lotta alla corruzione, che giustificavano l'invio di aiuti militari americani a Kiev. E la potente organizzazione dei Boy Scout americani, dopo lo scandalo del Me Too, sceglie l'opzione bancarotta a causa delle centinaia di denunce per abusi sessuali esplosi l'anno scorso, quando i giornali americani hanno rivelato che tra il 1944 e il 2016 quasi 8.000 volontari avrebbero abusato di oltre 12.000 ragazzi. Alcuni stati americani hanno poi approvato e quindi aperto finestre legali che hanno consentito alle vittime più anziane di fare causa. E ancora Stati Uniti, il Senato dello Utah ha votato all'unanimità per depenalizzare la poligamia tra gli adulti consenzienti. Secondo le leggi vigenti, chiunque abbia più coniugi potrebbe affrontare fino a 5 anni di carcere, anche se poi raramente viene condannato. I sostenitori del disegno di legge dicono che eliminerebbe il segreto che circonda le comunità che praticano la poligamia e consentirebbe alle vittime di denunciare gli abusi, ma i critici avvertono che potrebbe rafforzare il potere di chi lo fa. Il disegno di legge deve ancora essere approvato dalla Camera dei rappresentanti dello Stato. Si stima che circa 30.000 persone vivano in comunità poligame dello Stato dello Utah, secondo l'Associated Press. Questo Stato ospita la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, nota anche come la Chiesa Mormona, che ammise la poligamia nella sua storia antica prima di vietarla nel 1890. Venezuela. Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per il Venezuela, Elliot Abrams, ha avvertito ieri che le sanzioni statunitense contro la nazione sudamericana non cesseranno fino a quando il Venezuela non recupererà la sua democrazia, riferendosi alle sanzioni imposte martedì da Washington contro la consociata della società energetica russa Rosneft per aver presumibilmente contribuito a evitare le sanzioni contro Venezuela. Abrams ha definito la decisione un primo passo durante un briefing telefonico. La sanzione di Rosneft Trading SA, una consociata costituita in Svizzera che il Dipartimento di Stato e del Tesoro hanno dichiarato servire come società di intermediazione petrolifera, è stata effettuata perché opera nel settore petrolifero venezuelano, che gli Stati Uniti hanno sanzionato a gennaio 2019. E mentre gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro la compagnia petrolifera e del gas naturale statale PDVSA, dal canto suo il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato sempre ieri due misure adottate dal suo governo per garantire la sicurezza dell'industria petrolifera del paese. E andiamo in Colombia, non si placa la violenza. Il partito delle FARC manifesta preoccupazione per l'assenza di garanzie sulla sicurezza quando un altro membro delle forze rivoluzionarie armate della Colombia è stato ucciso. Il partito, nato dalle trattative di pace che hanno portato nel 2016 alla fine di un conflitto pluridecennale, ha chiesto sicurezza per gli ex combattenti che ora sono nel pieno di un processo di reintegrazione verso una vita civile. Daniel Jiménez è stato ucciso nella cittadina meridionale di Puerto Guzmán, ha detto Radio Contagio. E concludiamo con l'Argentina. Il Fondo Monetario Internazionale, al termine di una missione nel paese, ha ritenuto il debito insostenibile. Pensa ci sia bisogno di un contributo significativo da parte dei titolari privati di bond per riportare la sostenibilità. E da parte nostra anche per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi, appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie. Yeah.

rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Musica lacrime per aprire questa rassegna stampa che va in Assia, da Nau, un posto vicino a Francoforte in Germania, dove la xenofobia e il nazismo ha colpito ancora con un attentato contro il bar che l'attentatore voleva uccidere tutti i turchi. 9 le vittime di questa sparatoria, tra cui anche cittadini curdi, e 4 feriti che sono in gravi condizioni, quindi bilancio pesantissimo. Nell'attacco vengono presi di mira appunto i bar della comunità turca, ma non solo, perché anche i curdi a volte da lontano è difficile capire qual è l'olio etnico giusto e quello no. Nel primo bar è entrato e ha aperto il fuoco, mentre la seconda volta avrebbe sparato dalla macchina. Poi viene trovato senza vita l'autore di questa strage nella città, appunto, ricordo, tedesca di Hanau in Assia. Leggo dalle flash di agenzie di questa mattina. Quindi è un tedesco, la polizia che lo ha individuato e rintracciato nella sua abitazione, dove è stata trovata anche un'altra vittima di cui ancora non sappiamo nulla, ma tra un po' in mattinata naturalmente verremo aggiornati nelle notizie. Scoperta anche un'auto con armi e munizioni. Questo killer vicino a Francoforte ha lasciato una lettera e un video in cui confessa le sue azioni. Secondo gli inquirenti, il killer era un estremista che voleva sterminare gli immigrati. Nel documento, sotto Tobias, nella rivendicazione sostiene opinioni di estrema destra, tra cui la necessità di annientare alcuni popoli, nel meno dell'uomo, appunto, due bar prevalentemente frequentati dai curdi. Questo è in una comunità turca, ma comunque sono evidentemente notizie ancora frammentarie che vanno completate, ma poiché fossero turchi, curdi, italiani o inglesi o danesi o della Papua Nuova Guinea non cambia nulla. È sempre un orribile crimine contro l'umanità e contro la ragione. Detto questo, aspettando appunto notizie ancora su questo attentato, che domani sicuramente saranno dei titoli principali che andranno sulla carta stampata in edicola, oggi invece i titoli sono dedicati al piccolo Napoleone mancato d'Italia, ovvero sia Matteo Renzi. Più che Napoleone, il riformista di Sansonetti, osannandolo, lo paragona un altro francese, al generale Charles de Gaulle, quello, tanto per dire, solo che con Napoleone Renzi ha in comune la statura, con de Gaulle neanche quello. Comunque, Renzi come de Gaulle, facciamo la Quarta Repubblica. Questo perché nella Quarta Camera dello Stato, ovvero sia il porta a porta di Vespa, perché lì si parla mai di politica, Matteo Renzi ha proclamato la necessità della Repubblica presidenzialista, quindi fuoriuscire dalla Costituzione, allineandosi in questo con le raccolte di firme della Lega e con la proposta da sempre di Fratelli d'Italia della signora Meloni. Quindi vediamo allora quali sono i titoli. Renzi va all'attacco, è il Corriere della Sera, Conte fa muro, il leader Italia Viva non affonda sulla crisi, chiede le elezioni dirette del Premier. La replica, altre priorità, invece mandarlo a spendere più gentilmente si alte le priorità. Guardiamo allora la pagina del Messaggero. Renzi Conte strappo rinviato, perché appunto il colpo alla botte nel cerchio è un altro colpo ad Conte, è quello di Renzi che appunto dice non voglio la crisi di governo. Ma scendiamo al Gazzettino del Nord-Est. Renzi Conte strappo rinviato, mentre abbiamo la mossa di Renzi per sfidare Conte, secolo XIX, non altro che tregua, parla di elezione diretta del Premier. Ma come hanno reagito i giornali vicini nel comparto giallo-rosso? Il Fatto Quotidiano, chiamate l'ambulanza. Renzi a Renzi, l'ultimo bluff a Porta a Porta. Tutti i media pesi ai suoi spari a salve. Premier eletto a patto con la destra che lo irride. Via Rito e Bonafede, lo dice da un mese, Conte lo ignora. Naturalmente non si capisce bene se per far dispetto, per ingraffiarsi il padronato italiano, l'obiettivo è attaccare il reddito cittadinanza, evidentemente, che colpevoli mali, perché spendere i soldi per i poveri senza lavoro? Qual è il motivo? Non c'è nessun motivo, secondo Renzi, secondo tanti altri del mondo, dei poteri forti. Ma come reagisce allora la destra a questa uscita di Renzi, a questa chiamata alle armi di Renzi? Beh, non particolarmente in modo entusiasta, perché Renzi non ha una gran credibilità neanche in quei paraggi ultimamente, perché la verità vita titola La bomba salve del bomba, dalle discese dell'Himalaya alla caduta libera, che non è il massimo dei complimenti. Mentre il libro parla di un SOS, appello di Renzi, centrodestra, aiutami tu. Matteo, non voglio morire grillino, il PD sembra un pandolino che assorbe tutto per la sedia, il paese fermo, riforme anche con Salvini, Silvio e Fratelli d'Italia, questo governo di unità nazionale che secondo Renzi, anche nella sua idea evidentemente di un premier, chissà che non pensi di tornare in gioco lui come l'uomo del centro, come ago della bilancia e quindi futuro premier. Evidentemente non ha ancora capito che l'era Renzi è finita il 4 dicembre del referendum. Ma infatti anche il Manifesto, e qui andiamo alla sinistra, dice che la bomba di Renzi è solo un cerino, ma un cerino potrebbe far saltare la Santa Barbara del governo. Il leader dell'Italia Valviva ha detto le condizioni per finire gli alleati. La contromossa di Conte viene descritta appunto dal Manifesto, che Renzi detta le sue condizioni, comincia il gioco del cerino, che significa un countdown per le elezioni anticipate, e per non chiamarlo presidenzialismo lo chiama il sindaco d'Italia, questo perché pensa su alle se stesso quando era sindaco di Firenze, e poi perché magari è più ammiccante, amichevole, meno minaccioso, ricordando peraltro da parte nostra umilmente che anche il sindaco di una città o anche il governatore di una regione comunque sottostà alle maggioranze parlamentari o comunali o regionali, quindi non c'è quel trumpismo, è un altro di quei bluff o giochi di parole che molto avanti non ci portano. E allora si arriva a questo tema dei responsabili che andrebbero in qualche modo a sostituire l'Italia Viva di Renzi, che nel frattempo accoglie altri due transfughi. Uno arriva dal PD, e qui potremmo pensare che era uno di quelli del PD che non sono passati correnti in primo tempo e ci vanno adesso, pensando magari di avere più spazio, e l'altro è uno che arriva da LeU, e questo ha seguito il suo precedente Gennaro Migliore, che da Rifondazione o da SEL passò direttamente a Renzi senza passare dal via del PD. Queste sono, ma detto questo, la lunga attesa dei responsabili, le chiamate renziane per frenarli, da Mallegna a Binetti alla lista di Mana Romani, perché la signora Binetti, quella del sacro cilicio, andrebbe a rafforzare il governo giallorosso, quindi sicuramente ahimè ci sarebbe uno spostamento al centro e in peggio dell'attuale asse politico. L'idea di agire solo sei voti sono decisive, effettivamente i responsabili sono per definizione dei sommergibili, e emergono quando serve, prima va in giro solo col periscopio a vedere come butta sopra il pelo dell'acqua. Allora questo concetto del sommergibile è anche quello di Ilaria Proietti e Gianluca Roselli dal Fatto Quotidiano. Il flop di Renzi rimanda in sonno i responsabili, l'ultima riunione ieri mattina convocata dall'Azzurro Romani, ma saltano cene e colloqui e parecchi forzisti ribelli sono stati mollati dalla Carfagna. La Polverini smentisce un incontro con Conte, poi torna a trattare in transatlantico, devo dire, questo è quanto. È ancora Il Giornale che invece spera nella rottura di Renzi, ovvio per andare alle elezioni, dove il centrodestra è stato in vantaggio nei sondaggi. Franano, dice Laura Cesaretti, responsabile, le stampelle del premier per ora non si vedono. Grazie Alfredo, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e continuiamo a vedere che cosa si dice di Renzi, e lo facciamo in primis partendo dal quotidiano Il Principe per seminare zizzania e il resto del Carlino. La spallata di Renzi: voglio il premierato, il leader di Italia Viva rilancia le riforme e insiste, pronti a sfiduciare Buonafede, e naturalmente il PD e il Movimento 5 Stelle si arrabbiano molto. E nelle pagine 6 e 7 da un lato c'è il premier che reagisce e dice: ho finito la pazienza, o dentro o fuori. Conte evoca lo scenario della scorsa estate quando portò la crisi in Parlamento e farà le sue scelte. Dall'altra pagina invece c'è Renzi che sfida Conte, e naturalmente Bruno Vespa gli tiene il bordone, dentro a Porta a Porta chiede il premierato e scava un fossato con i grillini, via il reddito di cittadinanza e bisogna sfiduciare il ministro Bonafede. La reazione del centrodestra dice: Giorgia Meloni, presidenzialismo, se vuole firmi la nostra proposta, la riforma previdenziale, la storica battaglia della destra che rivendica la Meloni, è un tema troppo serio per essere utilizzati come bieco strumento di manovre politiche, come sta facendo Renzi col suo ben poco credibile appello. E in questo direi che insomma c'è un po' di ragione anche la Giorgia. E ancora La Stampa, Renzi apre alla destra, serve un esecutivo istituzionale e rilancia l'ipotesi di Draghi, e gelo di Conte, la Meloni dice vabbè ma non è credibile il piano di Conte e Zingaretti, batteremo Italia Viva sul fronte della legge elettorale. Perché comunque sia l'offensiva di Renzi, il governo in bilico, serve un premier eletto dal popolo, è appunto quello che chiede peraltro Renzi in questa situazione. Poi continua ancora sempre la Stampa, ci parla della proposta della ministra Lamorgese, il piano per punire con il carcere i piccoli spacciatori, arrestare un pusher e il giorno dopo rivederlo libero demotiva gli agenti. Basterà allora, riguardo le intercettazioni e le tappe sulla vicenda, con il decreto Orlando il governo affrontava il tema della riforma delle intercettazioni fino ad arrivare al 2019. Il 31 dicembre viene pubblicato il decreto legge con modifica delle norme sull'esecuzione delle intercettazioni, si arriva a proroghe fino al 1 marzo 2020, ora è atteso il passaggio in aula. E si occupa di intercettazioni anche il Resto del Carlino, ma lo vedremo più avanti. Diamo un'occhiata alle pagine della Repubblica, che ci parla appunto di Renzi, via reddito di cittadinanza, la giustizia, Italia Viva vota con la destra. Queste erano le notizie sul governo. L'Avvenire riassume tutto ciò con la parola, nel titolo principale, sfiducia di governo. Questo è quanto, ma la maggioranza non ha solo il nodo Renzi, evidentemente. Renzi va a essere sale sulle ferite, perché tra Camera e Senato, ci racconta Andrea Fabozzi, giustizia giallorossi in pezzi, destra, Italia e Viva vanno in trincea. Ancora una volta i renziani che votano di nuovo con le opposizioni sulla prescrizione, la maggioranza va a un soffio dall'incidente, salva solo perché vota la Presidente della Commissione quando è così pratica che si astenga per essere un po' tra virgolette sopra le parti. La Lega tiene in ostaggio il decreto intercettazioni. E ancora vediamo il tema che deve essere uno dei primi temi: rimuovere le leggi sulla sicurezza di Salvini. Allora, lotta alla droga, la Morgese insegue Salvini, in carcere anche chi spaccia modica quantità. Questo è Mino Materi dal Giornale, ma questa cosa viene confermata anche da altri testi, altri fogli stampati, carta stampata, quindi è vera. Stretta del ministro dell'interno, il pusher non deve essere liberato in 24 ore, quindi questo è quanto. E allora parliamo della destra. Maggioranza scelga chi vota. Il no di Salvini all'intesa con Italia Viva. Beh, anche Salvini fa come i sommergibili responsabili. La notizia viene fuori quando serve, non prima perché si brucia. Quindi qui la nego. Il leghista freddo sui temi elencati da Renzi. E Giorgetti offerta che parla a tutti ma non a noi. Matteo Salvini, non esistono governicchi, accordi segreti, trucchetti di palazzo, prima si vota, meglio è. Mentre Tajani da Forza Italia, che è un partito in liquidazione, è in liquefacimento, non ci sarà alcuna fuga per sostenere un governo in bilico. Questo è, ci sono divisioni nel centrodestra sia sul nome di Caldoro in Campania che su quello di Fitto in Puglia, con la rotta di collisione tra Meloni e Salvini. Ma per dire che per parlare invece di Salvini, del cuore profondo della cultura leghista, forse si capisce meglio guardando Facebook. MILF con Salvini è satira, ma i leghisti si scrivono perché non capiscono che è una presa in giro. A ricordarci, racconta il Fatto Quotidiano, che internet è assieme alla causa e la soluzione di tanta parte delle miserie del mondo, ecco la pagina Facebook definitiva sulla politica italiana. Si chiama MILF con Salvini, cucina marghigiana. Diffonde contenuti fasulli satirici come se fossero appena opera del capitano Vero, roba talmente sciocca, sgrammaticata e volgare che nessuna persona senziente potrebbe credere che provenga davvero da un ex ministro della Repubblica, forse. perché in realtà troviamo che è un terrificante atto dell'assurdo. Non vorresti guardare, Salvini, chi vuole entrare nel nostro paese deve rispettare la nostra cultura, storia, religione, se no se ne torna a casa. Se la pensi così, così condividi. E poi buongiorno, buon sabato, denuncio Benigni per quello che ha detto a Sanremo, condividi se vuoi che lo denunzio, tutte cose che i leghisti, credendoci, perché tanto non c'è molta differenza da quello vero, sottoscrivono allegramente, entusiasticamente. Questo è quello che arriva dal Fatto Quotidiano, mentre da Bologna, per dimostrazione che poi non è così paradossale questa pagina Facebook finta presa per vera, da Bologna, Carlino Bologna, arrivano 50 immigrati, Bagnarola non ci sta. Proteste nella frazione per l'apertura di un centro d'accoglienza. Il sindaco convoca un'assemblea, ha deciso la prefettura. Mazzanti, saranno quasi tutte donne. Tonelli, della Lega ovviamente, non ci risulta, li accoglieremo con uno striscione del serie benvenuto. Questo è quanto troviamo. E dal Corriere a questo punto ci arriva il corollario, tutto quello che abbiamo letto da un punto di vista culturale, per cui troviamo questo tema che arriva la pagina 48, quella della cultura e spettacolo del Corsera, arriva questa riflessione: stanno sparendo le parole. E questo non è secondario rispetto alle semplificazioni estreme della politica. Massimo Arcangeli, perché da oggi in libreria Il Saggiatore, l'indagine svolta tra gli studenti universitari, quindi popolazione acculturata, 50 termini a rischio scomparsa, non solo dunque il panda o il pangolino, ma anche le parole. Abulico, nemesi, sordido. In quanti sanno cosa vogliono dire? Potremmo aprire un gioco anche per i nostri ascoltatori con dei dischi in premio. Per esempio, sordido, parola difficile. Per alcuni collaborare vuol dire rovinare. Quel pezzo di ferro ci sta per corroborare. Queste sono le famose topiche, oppure i cavalli allo stato ebraico, per dire in giro. Questo, si sentono queste cose. E questo appunto fa parte, la premessa forse culturale, dell'involuzione politica. Sì, sul decreto mille proroghe ritorniamo alle pagine del Carlino per parlare della ministra Lamorgese e dei provvedimenti sulle droghe, ricordando che Salvini, quando scrisse i decreti sicurezza, aveva nel cassetto anche una riforma del decreto legge che prevedeva un inasprimento delle pene. Se ti becco con la droga vai subito in galera, esemplificava il leader della Lega. Le pene per chi trafficava stupefacenti venivano aumentate fino a un massimo di 6 anni, adesso è 4, così come le multe fino a 20.000 euro. E c'è la ministra Lamorgese e il ministro Bonafede che stanno lavorando per modificare il comma 5 e 5 bis dell'articolo 73 del testo unico sulle droghe, che prevede per i reati di lieve entità di accedere alla sospensione condizionale della pena e al lavoro di pubblica utilità. E c'è una cosa che riguarda Bologna, il DASPO urbano, una sorta di foglio di via attivo dal 2017 a Bologna, è circoscritto all'area universitaria e al parco della Montagnola, le zone calde della città. Poi la scorsa primavera la sentenza ha riconosciuto l'aggravante della zona universitaria a uno spacciatore facendo scattare le manette nonostante la modica quantità. L'idea è del procuratore di Bologna Giuseppe Amato, che ha proposto aggravanti per chi spaccia in zone sensibili come le scuole. E sempre il Sole 24 Ore che ci dà una notizia chiara di come è proposto il decreto mille proroghe, dice: testo definitivo è arrivato dopo un lungo scontro politico, la Camera approva il decreto cresciuto da 43 a 78 articoli, entro fine mese l'ok del Senato senza modifiche. Tra le misure chiave anche il rifinanziamento delle cose finanziarie del decreto omnibus, e ci sono addirittura 20 passaggi in cui si specifica esattamente quali sono le modalità dei cambiamenti del decreto mille proroghe. La Stampa invece ci propone una serie di questioni che riguardano la cronaca, ma la cosa interessante è la politica che ci propone la Repubblica, c'è un bel articolo di fondo di Filippo Ceccarelli che parla di nuovi scilipoti per lo scudo crociato per salvarsi. Dice: ma per favore non chiamateli responsabili, perché non lo sono affatto, tantomeno siano battezzati, come non dispiacerebbe al PD Bettini, i democratici, perché purtroppo la democrazia ha già i suoi guai e saranno pure utili a salvare il governo Conte, ma sono maschere o mascherine, saltimbanchi, rifugiati, naufraghi e anime in pena. E direi che questo è un articolo che va visto, appunto. E c'è una cronaca che ci parla di Squinzano in provincia di Lecce, dove le sardine sono arrivate anche a Taranto per parlare con gli operai dell'Ilva. Santori parla della nuova fase delle sardine. Bisogna salvare la Puglia dopo 15 anni di centrosinistra, grida Salvini sul palco dall'altra parte di Squinzano, mentre le sardine incontrano appunto nelle piazze circostanti i cittadini di Squinzano per parlare appunto dell'Ilva e delle crisi del lavoro, della Whirlpool e di ancora di altri problemi che riguardano appunto la politica. Il Mattino di Napoli apre con sardine: il flop di Napoli fa partire la resa dei conti. Effettivamente le sardine stanno scontando il passaggio da un movimento per le elezioni milano-romagnole di una tradizione riformista da salvare contro gli unni del centrodestra a essere un movimento continuo nel vero nazionale, e questo propone grosse difficoltà. E tra l'altro li fa tirare una melma, perché leggo con Andriana Pollice da Napoli e dal Manifesto: sardine, scontro sulla piazza semivuota di Napoli. Santori, pappe, c'è potere al popolo e altri hanno occupato il palco. La replica: non è vero. Certo che si ingarbuglia in queste polemichette di cortile che interessano ben a pochi. Per me non vince nessuno, e se vince qualcuno vince su un culo di maceri, lasciando dietro il silenzio e il niente. Ma tornando invece a Matteo Renzi, qualche fondo lo troviamo, per esempio, dalla seconda pagina del Corriere: logorare e frenare una scelta che fa male al paese. Questo è il parere, appunto, che dalla prima pagina arriva dal Corriere, con Massimo Franco, notista del giornale, che segnala anche: se anche si vota solo, tra virgolette, nel 2021, contro il modo in cui ci si arriva per pretendere i consensi, non basta mettersi in vetrina. Quindi parliamo sempre di vetrina. Norma Rangieri, il piccolo cabotaggio di un ex leader. Dice dal Manifesto: sembrerà strano, ma proprio un manovriere eccellente come lui poi non si accontenta di lui, Renzi, di possibili mediazioni nella maggioranza e minaccia così di governo a orari regolari come un orologio svizzero, e mentre esercita la professione di fascia carrozze dalle montagne pakistane ci dà appuntamento alla tavola che ogni sera il buon Vespa apparecchia per chi rivolge alla sua benevolenza. Da un altro salotto televisivo, quello di Fabio Fazio, fece fallire il tentativo di accordo 5 Stelle PD dopo il 5 marzo 2 anni fa, salvo risuscitare una volta deciso che avrebbe giocato il ruolo di mina vagante con una scissione lampo. Che un governo di coalizione nato a Ferragosto sia sottoposto a verifica permanente per trovare l'accordo sui migranti, come sulla scuola, sui 100 tavoli di aziende o crisi, o sul salario minimo, sembrerebbe normale amministrazione per un'inedita alleanza stracolma di contraddizioni, scelte politiche ambigue, difficoltà intrinseche, non però per chi come Renzi o come Salvini, ma il supporto alla mediazione vive nell'arroganza del comando fino a trovare, a invocare il presidenzialismo. Altro commento non benevole, evidentemente, quello che arriva da Travaglio: panzana virus, questo è un fatto sanitario, dice Travaglio. Chi tra qualche anno farà l'inventario dei danni interferiti a questo povero paese dai due Matteo, si domanderà come sia stato possibile che negli anni 10 del secondo millennio due mitomani di quel calibro godessero di tanto spazio e credito non tra gli psichiatri, ma nell'establishment, dunque nei media, quindi tra gli elettori. Oggi pare impossibile, ma fino a 2 anni fa un caso umano come il Matteo Minor, che si sta rotamando il suo governo una maggior gloria del Matteo Maior, dettava la linea in tutte le elite imprenditoriali, finanziarie, giudiziarie, politiche ed editoriali, pronte a tutte pur di compiacerlo, anche a trasformare i suoi peti in Channel 5. Il caso Consip, che il fatto racconta fin dal primo giorno, è il perfetto paradigma di questo numero monumentale tradimento della verità e della decenza. Questo è quello che troviamo dalla pagina del Fatto Quotidiano. Insomma, sono tempi, ancora una volta, tempi tristi, che ci fanno sentire un po' come Scagno Celestini.

Il Mondo di Agnese Cotignola, edizioni Feltrinelli, e ci fa sapere che 2 miliardi di persone, secondo la FAO, già mangiano insetti. E buona parte degli altri non l'ha mai fatto, eppure bisognerà abituarsi, probabilmente perché in tempi di scarsità di risorse nessun alimento ha le caratteristiche degli insetti dal punto di vista nutrizionale. I grilli, per esempio, offrono a parità di peso una quantità di proteine uguale a quella del manzo e soprattutto rispetto all'impronta ecologica sono molto più verso l'ambiente. Cambiamo pagine e andiamo su Repubblica, parliamo del locale dei Prati di Caprara. Merola ha pubblicato il PUG, il piano generale del traffico, insieme all'assessora che ne cura il Valentina Orioli, che ne cura appunto il piano. Non c'è nessuna indicazione per quello che riguarda l'ambiente e l'utilizzo dei prati di Caprara nei prossimi anni. Da parte di Merola c'è però un'ipotesi di creare degli ambienti multifunzionali, tipo le zone a traffico limitato o le zone appunto di quelle che fanno sulla T del centro. E ancora notizie sull'ambiente, sempre dalle pagine di Repubblica, un articolo che ci parla di grano coltivato in Siberia. Immaginate enormi distese di grano, questo lo dice Marco Tedesco appunto nell'inserto delle scienze dell'ambiente nelle pagine di Repubblica. Immaginate, non siamo in Italia, siamo nelle grandi distese americane, neanche nel Canada, ma in Siberia alla fine di questo secolo, e questo è lo scenario che anticipano gli scienziati in questo nuovo articolo pubblicato di Rigente sulla rivista PLOS ONE, fondendo proiezioni per la temperatura e le precipitazioni di 17 modelli climatici e altrettanti modelli riguardo l'agricoltura. Ma la notizia più drammatica è questa, dice: la corsa contro il tempo per fermare le locuste. Mentre tutto il mondo ha gli occhi puntati sul coronavirus partito da Wuhan, in Africa orientale si sta consumando una tragedia epocale. Come nell'ottava piaga biblica, da mesi sciami di locuste nel deserto stanno distruggendo campi coltivati e pascoli a un ritmo infernale. In Kenya è la più grave infestazione da 70 anni a questa parte, con un solo sciame stimato in 100-200 miliardi di locuste che hanno saccheggiato 2.400 chilometri quadrati, una volta e mezzo la provincia di Milano. Per cercare di arginare l'invasione, secondo l'allarme lanciato dalla FAO, potrebbe rapidamente trasformarsi in una catastrofe umanitaria, lasciando senza cibo milioni di persone che vivono in condizioni di insicurezza alimentare. In Kenya e in Etiopia si sta provvedendo all'irrorazione con aerei e gli insetticidi ad azione rapida, ma i mezzi limitati impediscono di avere un'azione risolutiva. Addirittura le popolazioni a livello locale utilizzano i suoni, sbattendo tegami fra di loro hanno notato che le locuste scappano. Il problema non è un solo problema africano, ma un problema mondiale, perché a questo punto, se le popolazioni in carenza di cibo inizieranno a spostarsi dalle loro zone di origine, tutto il mondo dovrà occuparsi di questo gravissimo problema, partito un anno fa dallo Yemen e ora trasferitosi sia nelle coste dell'India ma anche nella parte interna dell'Africa, e sta per entrare in Sud Sudan, che è anche quello un paese gravemente in crisi. E il picco delle locuste sarà previsto a giugno. E io dal Global torno al Local, che tu già anticipavi, col Corriere di Bologna. Merola stoppa nuove costruzioni. Ecco il piano urbanistico che il sindaco lascia in eredità. L'obiettivo di 6.000 case per gli affitti. devo dire che se si lascia in eredità questa è una buona eredità, al di là del mandato precedente. L'espansione della città è finita, si punterà sulle rigenerazioni e si difenderà il verde pubblico. Questa espansione della città finita è già il tempo dell'allora architetto urbanista Campos Venuti, che ipotizzò una fascia boscosa per cintare la città, per dargli ossigeno e appunto anche delimitare un'espansione infinita. Non è avvenuto nulla, perché allora leggo che 6.000 case per gli affitti, ma il verde non si tocca, quindi niente nuove costruzioni. Via l'iter del piano urbanistico, solo rigenerazioni, sarà la mia eredità. Ma i costruttori sono già all'attacco. Rigenerare con incentivi, quindi vogliando i soldi, non si capisce bene da chi e chi possa dargli, i comuni sono privi di soldi. ANCE, l'Azione Nazionale dei Comuni Italiani, si superi il RUE, questa è l'attuale normativa, con Confedilizia, sistema farraginoso, perché non voglio né lacci né lacciuoli, questa è un po' la sostanza. Ma allora tu parlavi del parati di Caprara, caserme, aree ferroviarie, corsa per non perdere i diritti ficatori esistenti, quindi scatterà a fine d'anno tutti a presentare domande adesso, lo strano limbo dei prati di Caprara. Questo, ma nel frattempo Bologna si candida al premio per rendere la città accessibile. Questo è quello che arriva dal tema del Corriere Bologna. Giovedì c'è l'inserto ambiente del manifesto, l'extravergine, che ci parla dei pannolini sporchi che si lavano in famiglia, perché nei primi 3 anni di vita di un bambino vengono utilizzati circa 6.000 pannolini usa e getta, non è uno scherzo. Sono composti di petrolio, plastica, cellulosa e tanta chimica. I pediatri più avvertiti li sconsigliano perché sono anche tossici, ma oltre ad essere sconvenienti per la salute della prole, per le tasche dei genitori, sono dannosi anche per l'ambiente. Si decompongono in 200-500 anni. L'alternativa esiste ed è praticata da un numero sempre maggiore di famiglie, ovvero sia pannolini bio, naturali e soprattutto pannolini lavabili. Da questo terreno che sembrerebbe così terreno quasi folclorico, invece molto importante, visto anche l'entità del fenomeno, andiamo, ne parlava Celestini prima nella sua canzone, la riscoperta dell'asino amico. Questo è, superate dalle macchine, l'asino era diventato una specie da proteggere. Negli ultimi 10 anni si è assistito ad un progressivo ritorno. La sua popolazione è aumentata del 400% grazie ad agriturismi, fattorie didattiche. Il latte d'asina è più simile a quello umano ed è per questo meno allergizzante. L'asino è estremamente intelligente, chi conosce degli asini, io conosco tanti meno intelligenti, invece quelli a 4 zampe, e lo esprime nella sua apparente testardaggine, che non è altro che la capacità di analizzare un problema in maniera razionale. Poi, sfogliando, invece vengo all'aspetto turistico, camminare con lentezza, sulla strada degli dèi, una cosa che molti bolognesi conoscono evidentemente, da Bologna a Firenze, un'escursione lunga 130 km, la scoperta del turismo sostenibile sul modello Santiago, il famoso viaggio pellegrino di Santiago Compostela, che ti dà anche un pass per il paradiso. Detto questo, per collegarci anche al lavoro, che è il tema a seguire della nostra rassegna stampa, vado invece in pagina 15 del manifesto, nella pagina riflessioni, perché Mario Agostinelli, lì noto figura dell'economia anche e del ragionamento sinistra, e Bruno Ravasio ci dicono lavorare meno, lavorare tutti per salvare il pianeta. Non è solo un problema di vivibilità del lavoro, cioè quindi riduzione dell'orario di lavoro, perché dice tra l'altro nell'articolo che compare nella penultima pagina del manifesto, il tempo smisuratamente prolungato a cui si è costretti in mansioni e operazioni eterodirette non è né naturale né inevitabile, anzi un'eccessiva capacità trasformativa del lavoro nuoce dal punto della biosfera da minacciarne la sopravvivenza. Studio e lavoro, studenti e lavoratori sono imprigionati in un'unica potente e pericolosa alienazione. L'aumento della disuguaglianza sociale, della precarietà del lavoro e dell'esistenza, la disuguaglianza di genere e la crisi climatica richiedono di individuare un pugno di sabbia da gettare in un meccanismo perverso per imporgli una torsione impraticabile a livello di massa. Riteniamo, dicono dal manifesto, che un'inversione possa tradursi con la rivendicazione di una radicale riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. E allora qui entriamo in un mondo che va in una direzione completamente opposta, perché invece di creare un lavoro a misura d'uomo ed ambiente si crea sempre più compressione dei turni di lavoro nella famosa produttività e si affida alle sorti del mondo non ai poeti, non ai filosofi, non agli economisti, ma alla finanza, che evidentemente ragiona in tutt'altro versante. Eccolo qua, ieri dice nato un campione. Torniamo sull'argomento, offerta intesa, Lubi frena, Massia, perché è il nuovo Massia, no? Quello che tutti aspettavamo. Ci vorrà tempo, il nodo è il prezzo dell'OPS, l'offerta pubblica, oggi il patto di scambio, oggi il patto dei grandi soci, Fosti, Cariplo, è un'ottima operazione perché tutti quelli che andano a guadagnarsi si fregano le mani. poi cimbri, una scelta di mercato, vedrete il sistema si rafforzerà, il sistema, no? Per quando lui. Gli fa comodo il sistema è una cosa che riguarda tutti noi, infatti si riguarda tutti, ma si rafforza per chi? Il CEO, che sta per amministratore delegato, sta per padronaccio, chiamatelo come volete, il CEO di Unipol con Messina consonanza di veduta, beh, la stessa pariglia, BPR cresce, ora vediamo i risultati. Mentre c'è, sempre per dare la voce agli operai o ai bancari che vengono licenziati, perché su 5.000 esuperi promettono 2.500 entrate, ne promettono, ma solo comunque la metà, all'Italia serve un'operazione verità. Chi lo dice? De Romanis, De Bortoli, Rossi, alla Fondazione del Corriere, insomma, voci popolari che arrivano. Sul versante poi del lavoro invece di quegli altri, dei poveracci, il giornale, a pari di Renzi, bombarda il reddito di cittadinanza, perché il giornale non tollera una dei soldi per chi non ha un soldo in tasca. Questa è una cosa che non gli piace per nulla. E allora eccolo qua il titolo di cronaca: Massimo Malpica, il boss mafioso con reddito di cittadinanza. Scotto, arrestato 2 giorni fa, percepiva il sussidio e la confessione al giudice. Ora, invece di felicitarsi che i controlli funzionano, lui vuole con questa notizia screditare la cittadinanza in quanto tale. Allora noi diremmo a Massimo Malpica: perché non fa lo stesso ragionamento quando scoprono qualcuno che percepisce un reddito di integrazione perché non vedente, magari ci vede benissimo, perché non togliamo tutto il reddito a tutti i non vedenti, a tutti gli handicappati o a tutti gli ospedali quando c'è una malversazione in ospedale? Questo è il ragionamento, appunto, talmente sbraccato che rischia di funzionare. Sì, ancora parliamo di banche, tu citavi i cimbri, e uno si chiederà che cosa che diavolo c'entrano le assicurazioni, Unipol Assicurazioni con le banche. Bene, l'Unipol Assicurazioni si occuperà di assorbire tutte le varie frange assicurative relegate a quelle che erano l'attività di UBI, ma nel risico dell'economia e nel risico bancario, dalle pagine del Carlino apprendiamo che Piazza Affari ha premiato appunto l'offerta di Intesa San Paolo, perché sono aumentate il valore delle azioni e fra i titoli bancari anche Banco BPM e altri ancora, ma ora si scommetterà sul Monte Paschi. Victor Messia c'è una fotonotizia che è alle prese con l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina. L'UBI frena e chiede appunto le verifiche del mercato borsistico prima di prendere una decisione di quelle importanti. Vengo allora a sempre tema del lavoro, parlare di salario minimo, quello che fa vacillare anche il governo. Ne abbiamo parlato con Simone Fana, autore del libro Basta salari da fame. Sentiamo le sue risposte. È un compromesso al ribasso che non risolve assolutamente il tema del lavoro povero, che è la vera urgenza a cui dovrebbe rispondere la politica italiana. Si era partiti da una proposta, quella iniziale avanzata dalla ministra Catalfo, di 9 euro l'ora lordi, che avrebbe garantito, diciamo, un aumento dei salari per i 3 milioni di lavoratori al di sotto quella soglia, e si sta arrivando invece a una proposta assolutamente regressiva di 7,5 euro all'ora, che non risponde totalmente al problema del lavoro povero, anzi porta l'Italia oggi in termini appunto di salario minimo nella parte più bassa comunque della retribuzione minima europea, considerando che sopra i 9 euro non è vero che c'è solamente la Germania, ma c'è anche la Francia, c'è il Lussemburgo, ci sono i Paesi Bassi, c'è il Belgio, quindi tutte, diciamo, le economie più solide nel contesto europeo hanno un salario minimo superiore ai 9 euro, mentre collocare questa soglia ai 7,5 euro all'ora consolida e colloca l'Italia nei paesi più in difficoltà, meno solidi, meno strutturati, insomma nella cornice europea. 7 euro e mezzo lordi per, come dire, alcune categorie potrebbe voler dire meno di 5 euro l'ora. Esattamente, sono 800 euro. È praticamente la stessa soglia fissata al reddito di cittadinanza, 780 euro. Capite bene che questa è una soglia che dovrebbe scandalizzare, diciamo, tutte le forze politiche e le forze sindacali che dovrebbero rappresentare il mondo del lavoro, perché appunto non risolve e non tocca minimamente la quota dei lavoratori poveri, che è in aumento in Italia e che vede oggi 3 milioni di lavoratori sotto i 9 euro. C'era bisogno almeno di individuare una soglia di 9 euro per, diciamo, aggredire quella parte parte di distribuzione del reddito è distribuirla ai salari, e invece si fa una scelta assolutamente regressiva e colloca, che riproduce in Italia le stesse dinamiche che abbiamo visto, perché considerando che se questa rimane la soglia, anche le retribuzioni, diciamo, appena più alte rispetto a questa rischiano di slittare verso il basso. È un'operazione suicida. Ci sono però altre misure che questo governo e i precedenti hanno messo in campo che possono in qualche modo bilanciare? Sto pensando ad esempio a tutto quello che è stato detto sul cuneo fiscale. Può essere efficace oppure no? Guarda, a mio avviso il cuneo fiscale è una presa in giro. Noi negli ultimi 5 anni sostanzialmente, con le agevolazioni del governo Renzi, abbiamo dato alle imprese circa 14 miliardi in termini di agevolazioni. Questi 14 miliardi non sono serviti a creare, come sappiamo, buona occupazione, nel senso che l'occupazione è cresciuta solamente nei settori poveri, e oggi continuare a pensare di alzare i salari riducendo le tasse rischia di essere un boomerang, perché le tasse oggi finanziano buona parte dei nostri servizi essenziali, dei servizi pubblici, del welfare, quindi... Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. E sempre sul lavoro Massimo Franchi dal Manifesto: sciopero dei driver, Amazon bloccata in tutta la Lombardia. Presidi degli autisti dei 4 magazzini gestiti dalla società in appalto, i sindacati costringono il gigante a scendere a patti, tavolo previsto per il 26 del mese. Fil CGIL, Fit CISL e Wilt chiedono stabilizzazione e migliori condizioni su multe e incidenti. Ma vengo alle bellezze delle grandi opere. Secondo Andrea Moiso dal Fatto Quotidiano, parliamo di Genova. Il ponte Morandi non è pronto, ma lo si inaugura con le frecce tricolori. L'hanno già fatto 4 volte, esempio con la Fano, Grosseto, inaugurata 6 volte, sempre lì che non è fatta. Vedremo Genova. Il caso è così descritto dal Fatto Quotidiano. Il sindaco commissario Bucci vuole organizzare la cerimonia 3 giorni prima delle regionali. Ma guarda caso, ma i tempi della ricostruzione rischiano di allungarsi. I rilievi di trasporti sono state riscontrate carenze sull'edicolale che collega la città a Savone e Livorno. Per quanto riguarda invece la nostra città, vorrei ricordare che il People Mover non parte mai, perché l'ultima grana è che è troppo rumoroso, e quindi ci vorrà ancora tempo per trovare delle soluzioni. Guarda un po'. Ancora notizie sul lavoro. Il governo ha dato un ultimatum ai Benetton riguardo la licenza sulle autostrade, e la società ha respinto l'offerta finale del governo, che prevedeva appunto la riscrittura delle concessioni. C'è ancora una guerra tra A2A e ERA, due compagnie che curano la distribuzione del gas in Italia, per accaparrarsi Asco Piave, che ha gasdotti dal Friuli e dal Veneto. E ancora notizie sulla cronaca, le prendiamo dalla prima pagina di Repubblica. C'è una bellissima foto di Letizia Battaglia, la famosissima fotografa palermitana. Letizia Battaglia ha fotografato Rosaria Schifani, vedova di un militare della scorta di Falcone Borsellino, che in questo momento ha assistito all'arresto del fratello per mafia, fratello che si era dissociato fin dall'inizio alle questioni familiari. Ancora notizie di cronaca locale sono sul Carlino, e riguarda il centro antiviolenza che insorge. Piera Stretti, presidente dell'associazione di Brescia, parla di un episodio gravissimo. Che cos'è? Una lavoratrice è stata licenziata dopo il porno ricatto. Brescia, quarantenni, denuncia la diffusione di video hot. Lo studio dove lavora la caccia, la cercavano tutti, non si poteva più lavorare in questo modo. E ancora un'altra notizia che riguarda appunto la PM Monteleone, che coordina il pool dei diritti ai minori. La magistrata Schock ci rivela che a Roma si prostituiscono anche ragazzini di 10 anni e un'altra notizia è che una baby gang ha stuprato una bambina di 10 anni a Napoli. Nel napoletano. E un'altra notizia di cronaca è che oggi a Scampia viene demolita la vela verde, il simbolo di Gomorra e di Scampia. Diritti umani, Amnesty International dal manifesto con Eleonora Martini. Almeno per Zaki l'Italia richiami l'ambasciatore. Intervista al portavoce italiano di Amnesty Riccardo Nuri. Massima pressione fino al 22 febbraio, c'è un'altra udienza. E allora se sabato prossimo il Patrick non verrà liberato, il governo italiano dia un segnale di insoddisfazione. Ancora diritti umani, perché facciamo uno sguardo a Contropiano, giornale comunista online, che trova la detenzione di Nicoletta Dosio arriva alla Camera dei Deputati, questa signora in là con l'età ma grande combattente per la NOTAV, che ha visto questa conferenza stampa organizzata dal Potere al Popolo nel buvette, cioè nella sala conferenze stampe della Camera. Ma 8 marzo, perché si avvicina l'8 marzo e subito abbiamo i ritorni. Su questo tema ancora una volta si ripete questo pilatesco no di CGIL. Sciopero femminista, la CGIL non ci sarà. Per l'ennesima volta tradisce l'appuntamento. L'8 e 9 marzo, mobilitazione in Italia e anche nel mondo. Mentre per quanto riguarda la pagina il tempo giornale della destra romana, che era scandalizzato perché la giunta regionale garantiva la casa delle donne, oggi invece ha questo titolo, il casino delle donne. Già questo dall'idea a sempre allegare il concetto di donne al casino come idea, così. Comunque tragicomica retromarcia di Zingaretti, lo stanziamento regionale di 700.000 euro in favore delle occupanti abusive diventa un giallo, perché le donne che occupano questo spazio per fare un'attività sociale sono occupanti abusive evidentemente. Il capo del PD si fa sparire il suo annuncio così da poter accusare il tempo di essersi inventato tutto. È anche possibile che sia tutto inventato conoscendo il tempo, ma questo è tempo davvero di violenza alle donne. A me da Napoli notizie da Bosco Reale, il branco di tredicenni e violenza di un gruppo sulla bimba di 10 anni. Quando sono 6 ragazzi di giovanissimi che fanno questa violenza su una bimba di 10 anni, viene ancora più la mare in bocca, perché sono entrambi vittime, cioè gli aggressori sono vittime carnefici al tempo stesso di una cultura terrificante. Periferia sud, in questo quartiere, mentre la ragazza è solo vittima evidentemente, in questo quartiere nel 2010 si costruivano barricate per bloccare i camion di rifiuti. Quindi alla lotta collettiva si è passata la disperazione e alla violenza su quello che è considerato più debole. Ma da Napoli al nord, a Torino, torna la bufera sull'assessore regionale Chiara Caucino della Lega, che al convegno dei comitati cittadini e diritti umani, questo è il nome del convegno, allora ha detto su questa legge terrificante sugli affidi che lei ha disegnato come assessora: lo faccio per mio figlio e per tutti i bambini, accetto critiche ma non da donne e senza figli. C'è chi parla e non è nemmeno madre. Questo per il disprezzo totale per chi fa delle scelte diverse dalle sue, e la dice lunga sulla concezione di queste persone. Ma non ci stupisce allora, come dice il Fatto Quotidiano, che dietro al disegno sugli affidi ci siamo noi, la rete di trascientologi, tornano quelli scientologi, e la Lega in Piemonte. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te, la mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice, viver lontano per te. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole mamma. Eccolo, Claudio Villa ci ha portato alle battute finali di questa rassegna stampa. Passiamo all'estero, iniziamo dalla Libia. Sarraj si ritira dai colloqui di pace e Erdogan entra in gioco e dice: lo aiuto io a prendere la Libia. Il bombardamento di Haftar fa saltare la tregua e Mosca dice: vogliamo difendere l'integrità territoriale. Russia e Turchia che si sfidano anche a Idlib, e l'ONU denuncia che ci sono 5.000 bambini appunto sfollati dopo l'offensiva di Assad. E ancora si parla di Brexit per il primo provvedimento che sta passando nel governo di Boris Johnson. Hanno appena reso la vita più difficile e dall'anno prossimo dovrete avere un'offerta di lavoro prima di entrare stabilmente a Londra, per esempio, qualifiche specifiche e, salvo eccezioni, avere un salario minimo di 25.000 euro e dovrete sapere parlare l'inglese. Questi sono i paletti che il governo ha messo, quindi insomma tanti mestieri come barista e pizzaiolo sono praticamente dedicati agli inglesi, visto che sono chiaramente al di sotto di questo tipico modo di lavorare, tipico stipendio. La stessa notizia ce la propone anche Il Resto del Carlino in modo più drammatico: porte chiuse e lavapiatti, questo è il primo provvedimento della Brexit. Ancora notizie dall'estero, arrivano dall'Iran. Domani alle urne per il Parlamento a Teheran i 2/3 degli elettori vogliono restare a casa. Sono circa 58 milioni di elettori chiamati alle urne per le 11esime elezioni parlamentari della Repubblica Islamica dell'Iran. Vedremo come sarà il duello. Continente americano, cominciando dal Centro America e il Messico, paese violentissimo, in particolare contro le donne. Alessandra Coppola racconta la storia: lo scempio della piccola Fatima, shock in Messico, paura e proteste, rapita e uscita da scuola, ritrovata morta in una discarica, con particolare brutalità. In un paese in cui vengono, ricorda Alessandra Coppola, qui vengono uccise 10 donne al giorno. Questo è il femminicidio, lo stragicidio in questo caso delle donne in Messico continua. Sempre sul Messico, il Corriere, il Manifesto, si parla di AMLO che insulta i 43 di Ayotzinapa e le vittime di violenze. Represse proteste pacifiche in Chiapas per gli studenti scomparsi, quelli famosi che hanno creato anche questo grande scandalo in Messico, racconta Claudia Fanti dal Manifesto. E sugli ultimi gravi femminicidi il presidente parla di esagerazioni. 10 donne al giorno uccise sono esagerazioni. Questo è AMLO, che dovrebbe essere un presidente, diciamo, di centro-sinistra. Andiamo a nord, elezioni americane, tutti contro Bloomberg, la prima volta il tycoon tra veleni democratici, il miliardario a Las Vegas per un dibattito con gli altri candidati uniti per screditarlo. Questo è il giornale che appunto conta sul dissidio tra i democratici per far tornare Trump alla Casa Bianca anche ancora a novembre. Ma Pino Arlacchi ancora una volta dal Fatto Quotidiano ci dà un parere che va contro tendenza, perché dice: perché Sander può vincere. Allora, Pino Arlacchi, il ragionamento è: soprattutto negli ultimi decenni, da Bush 2 in poi, a causa della maggiore mobilità elettorale, della crescita di un disagio che da parte dal profondo della società americana e che favorisce candidati radicali di svolta capaci di dare risposta al di fuori dei vecchi schemi e dei vecchi partiti. Il candidato che risponde più ad ogni altro a queste nuove esigenze è Bernie Sanders, quello della socialista, ed è quello che ha maggiore probabilità di vincere su Trump, anche lui personaggio di rottura, ma che non ha dato rinnovo di risposta al di là delle promesse. Quindi Bernie Sanders per Arlacchi è il candidato giusto per i democratici, ma mi sembra essere l'unico che pensi così. Chiudo con la Francia, perché oggi in Francia si tiene il 12° sciopero generale contro la riforma delle pensioni voluta da Macron. Le lotte d'Oltralpe però coinvolgono anche i lavoratori stagionali degli impianti di risalita, che nei giorni scorsi hanno scioperato contro la riforma del governo francese che vuole ridurre i requisiti per l'accesso al sussidio di disoccupazione. Il reddito di cittadinanza francese. La corrispondenza tra Parigi è di Lorenzo Battisti. Con questa corrispondenza noi vi salutiamo e diamo appuntamento domani sempre a stessa ora. Ciao a tutti. Salutiamo, la linea passa poi a Rock and Roll Radio. però sono in sciopero perché sono colpiti da una delle tante controriforme di Macron, cioè la riforma della disoccupazione. Che cosa è cambiato? Sostanzialmente l'inverno scorso, a partire da novembre, i criteri per accedervi sono più stringenti. Con quale motivazione è stato fatto questo? È stato detto: guardate, la disoccupazione è in diminuzione, anche se rimane a livelli molto alti, intorno al 10%, ma più bassa delle medie solite della Francia, appunto poiché la disoccupazione è in diminuzione, possiamo stringere un po' i cordoni della borsa. Qual è stato l'effetto? Che tantissimi, soprattutto ragazzi e ragazze giovani, che fanno impieghi stagionali, come appunto quello degli impianti di risalita, o comunque precari, pensiamo a tanti lavori temporanei nella ristorazione rapida o in tanti settori come gli hotel o anche impieghi normali d'ufficio in cui prevalgono i contratti a tempo determinato o interinali, bene, prima avevano una disoccupazione con criteri più semplici e che arrivava a coprire la stessa durata del contratto, cioè se io avevo un contratto di 6 mesi avevo diritto alla disoccupazione per 6 mesi, era sufficiente inoltre avere qualche mensilità lavorata negli ultimi 2 anni per potervi accedere. Bene, questi criteri sono stati ristretti, ci vogliono almeno 6 mesi di lavoro, in ogni caso diciamo è molto più difficile accedervi, per cui i lavoratori stagionali che nella scorsa stagione si trovavano con una disoccupazione alla fine del contratto, in questo momento qui si trovano scoperti o parzialmente scoperti e con una disoccupazione inferiore, con un importo di disoccupazione inferiore. Da qui nasce lo sciopero, uno sciopero che è notevole perché appunto è promosso da lavoratori precari,